non vedesti già mai scintille là. Rimbombate dolente al suon dell'angosciose mie parole, mentre con questi accenti il perduto mio ben voi sospiro. E voi che per pietà del mio martirio e del misero cor di more eterno, lagrima fra piano.